E questa musica è il mio vomitatoio, lo faccio per stare meglio, come medicina, come bisogno, necessità, siete meteori musicali di passaggio, questo non è un diversivo, non è un gioco, sono pillole malate, cinema. E non riesco a non dire come la penso, è più forte di me, e questo è il rap protesta, è il valzer impazzito dei pensieri. Siro Blio, fratelli di settembre, oggi siamo spenti in piccoli gruppetti e priva di argomenti, la vita, la povertà delle persone, solitudine, tutti hanno ragione, pani e pesci, moltitudine, è come un lungo vagone della cargo, nell'individualizzazione, con gli stimoli letargo, e per differenziarci noi, puntiamo sull'immagine ma con lo stesso stampo, siamo libri di facce aggressivi, non abbiamo più interrogativi fuggitivi, non parliamo di politica, non parliamo di lavoro, di famiglia, ma di musica, teniamo in alto la bandiera del predicare bene, poi razzolare male, coltivando gli interessi dell'amico più speciale, la parola d'ordine è condividere. Io rimango a sociale. Pensa e pensa, pensa, pensa, ma senza dipendenza. È il valzer dei pensieri. Io corro all'aria aperta. E pensa, pensa, pensa, allena la pazienza. È il valzer dei pensieri. Mi ascolti. Non hai un'etichetta, non sei un personaggio, dimentica in fretta il mio messaggio, tanto non stupisce più niente, si è spento il cervello della gente che non pensa evidentemente. Se non sei positivo ti allontanano, se non sei corrispettivo te la menano. È soggettivo trasmettere emozioni, provarle, non puoi classificarle come false. Ci si nobilita con i successi di una persona che fa parte di un passato che non ci appartiene. Se là fuori c'è il sole, la mia penna blu non si ferma, non fingo di volerti bene, ma si vede dallo sguardo, ti senti a disagio quando parlo, ti senti in difetto quando sono di passaggio. Senza contratto, compatto, rimango l'artista distratto. Pensa e pensa, pensa, pensa, ma senza dipendenza. È il valzer dei pensieri. Io corro all'aria aperta. E pensa, pensa, pensa, allena la pazienza. È il valzer dei pensieri. Mi ascolti. Intrappolati dalla rete, a casa in tuta, non dormiamo bene, non guardiamo la natura. Siamo di ferro come un'armatura, abbiamo scheletri, punti di sutura e nuovi temi per fare una canzone. Io vomito la bile, non mi serve ispirazione, e non mi basta un commento in bacheca. Se non mi vai a genio ti cancello alla cieca. Sto cambiando, mi sento diverso da quelli che conosco, ragiono controverso, e la mia musica barbona surreale piace alle persone che non vivono da vegetale. Ho lasciato la mia impronta in altre vite, non smetto di sognare immanicato nelle grane le pepite che ho trovato con l'ingegno, vivono nel bisogno di lasciare un segno. Pensa e pensa, pensa, pensa, ma senza dipendenza. È il valzer dei pensieri. Io corro all'aria aperta. E pensa, pensa, pensa, allena la pazienza. È il valzer dei pensieri. Mi ascolti. Pensa e pensa, pensa, pensa, ma senza dipendenza. È il valzer dei pensieri. Io corro all'aria aperta. Pensa, pensa, pensa, allena la pazienza. È il valzer dei pensieri, mi ascolti. E questo non è un'anteprima, non è un ritorno. Sono sempre qui, Siro Blio.